Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Beni per un valore di oltre 100 milioni, di cui una parte nel Mantovano, sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza alla criminalità organizzata di Bari. I finanzieri hanno eseguito un decreto emesso dal tribunale nei confronti di un imprenditore barese, Michele Labellarte, morto nel 2009, che secondo l'accusa avrebbe riciclato i proventi delle attività illecite del sodalizio criminale Stramaglia Parisi. Il provvedimento è stato reso possibile dalla normativa antimafia, che consente di richiedere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali anche nei confronti degli eredi dei soggetti deceduti. La confisca riguarda 8 società di capitali, 89 immobili, tra cui ville, appartamenti, capannoni industriali, terreni, nelle province di Bari, Brindisi e Mantova, oltre a vari rapporti bancari ed auto. Il decreto del Tribunale è giunto al termine delle indagini patrimoniali nell'ambito di un'operazione domino che nel dicembre di 2 anni fa portò all'arresto di 83 affiliati ai clan baresi. Fin qui potremmo dire la cronaca ricca, ma se avete fatto attenzione avrete notato che una parte di questi sequestri è avvenuta nella provincia di Mantova, precisamente nel comune di Bozzolo. Secondo l'accusa, alcune di queste società che operavano nel settore immobiliare avrebbero investito nell'acquisto di ville, appartamenti, capannoni industriali e terreni edificabili. Il punto è che la provincia di Mantova era considerata fino a qualche anno fa una di quelle province in cui mai e poi mai si sarebbe pensato alla possibilità di infiltrazioni mafiose. La crisi economica e gli enormi capitali da investire rendono però anche questo territorio a rischio e permeabile alle infiltrazioni. L'augurio è che d'ora in poi la guardia sia ancora più elevata. Buona vita e a domani.